Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con Europa 24. Oggi partiamo dall'intervento, dalla presentazione di fatto che il Premier Matteo Renzi ha fatto questa mattina del semestre europeo. In questi anni, naturalmente semestre europeo a guida italiana, in questi anni, ha detto Renzi, si è affidato alla moneta il compito di costruire l'Europa e si è detto senza riferimento critico al valore fondamentale delle politiche economiche e finanziarie del processo di integrazione, ma la moneta unica non basta. Così Matteo Renzi, ma sentiamo il servizio. Un'Italia più forte e un'Europa che deve cambiare, questo è il filo conduttore dell'intervento di Matteo Renzi alla Camera. Da una parte dunque un'Italia che non accetta lezioni di democrazia da nessuno, che non ha paura di alzare l'asticella delle ambizioni, dall'altra un'Europa che deve diventare più amica, vicina ai cittadini, meno cavilli e meno burocrazia. L'Europa non può semplicemente essere il luogo nel quale si vive di codicilli, si vive di parametri, la terra di mezzo dei cavilli, la terra di mezzo delle norme regolamentari che perdono il senso dell'ideale. Solidarietà con i migranti, crescita, lavoro, lotta senza quartiere contro la disoccupazione, in particolare quella giovanile, le priorità della nuova Europa. Il governo italiano non chiede di sforare il tetto del 3%, ma vogliamo smettere, dice Renzi, che dall'Europa arrivi un elenco di raccomandazioni che siano come una lista della spesa. Mi fa ridere chi dice che viola il trattato quelli che parlano di crescita. Viola il trattato chi parla solo di patto di stabilità. Il trattato ci impone di guardare alla stabilità e alla crescita come elementi che si tengono insieme. Non c'è possibile stabilità se non c'è crescita in Europa. Quanto alle nomine, dice il Premier, l'Italia non cerca poltroncine, i nomi devono essere conseguenza delle idee. Prima decidiamo dove andare, poi decidiamo chi guida. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un intervento che arriva all'indomani dell'apertura su rigore e elasticità attribuita attraverso l'intervento del portavoce alla cancelliera Angela Merkel. Allora sentiamo il commento di Adriana Cerretelli. Direi che non è una rivoluzione, è piuttosto il segno dei tempi, nel senso che la Germania sia pur mettendo precisi paletti come rispetto delle regole, constatato appunto che la politica del rigore cieco non ha dato i risultati sperati in termini di consolidamento fiscale e considerato che tutti hanno bisogno di crescita, Germania compresa, è disposta ad aprire una linea di credito con un'interpretazione più flessibile delle regole che esistono. E questo però ha una condizione, che i paesi che chiedono di accedere a questa flessibilità portino dati alla mano i risultati della loro azione politica, cioè devono dimostrare, prendo il caso del nostro paese, di avere finalmente fatto queste riforme che si promettono direi da decenni e che finora non sono ancora state fatte. Marine Le Pen non è riuscita a convincere i partiti, i 7 diversi partiti che gli servivano per realizzare il secondo gruppo euroscettico all'Europarlamento. Ci spiega tutto Laura Bettini. Niente da fare, non ci sarà un secondo gruppo euroscettico al Parlamento europeo. Marine Le Pen, leader del francese Front National, non è riuscita a soddisfare una delle due condizioni necessarie alla formazione di un nuovo gruppo. Il minimo dei 25 deputati li aveva, anzi erano di più, ma i 7 paesi rappresentati no. Inizieranno quindi la legislatura da non iscritti gli eurodeputati del primo partito di Francia, appunto il Front National, ma anche quelli della Lega, compreso Matteo Salvini, del PVV olandese di Wilders, dell'FPO austriaco, anche questo primo partito in patria, e del belga Vlaams Belang. Una condizione che li escluderà dalla distribuzione proporzionale delle cariche e dei dossier, li condannerà a ridotti tempi di parola, li costringerà ad avere 40 controfirme anche semplicemente per presentare un emendamento. E ovviamente saranno tagliati fuori dai fondi per l'attività politica di gruppo. Certo potranno trovare modo di unirsi più avanti, ma per le cariche e gli incarichi sarà troppo tardi. Intanto siederanno invece tra i neonazisti greci di Alba Dorata, quelli tedeschi dell'NPD, nonché gli antisemiti ungheresi di Jobbik. Un fallimento scottante, aggravato dal successo del rivale britannico di Le Pen, Nigel Farage, che il gruppo l'ha formato non solo con Beppe Grillo, ma anche grazie a una dissidente proprio del Front National. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E con questo è tutto per l'appuntamento con l'Europa. Naturalmente torniamo questa sera all'interno di Effetto Notte. Europa 24 invece torna domani intorno alle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.